successo scorsa sessione? Allora, abbiamo finito di parlare con i tre froci dell'Accademia, rivelando anche informazioni più o meno interessanti per più o meno tutti, diciamo, dei cui tre froci. Scusate. Simba! È stupendo. Tanto non so come spiegarlo, insomma, tu hai proprio la faccia da... Cat Dead, cioè non so come si chiama. Gattaro, sì, sì. Sì. Sì, ma quel gattaro che attira la figa utilizzando il gatto. La pussy. Sì, vabbè, basta. Posso assicurarti che non ha mai funzionato. Hai mai provato? Non mi pare. Basta, torniamo sui nostri binari. Vado a fare self farm. No! vai, dai, parla, allora. Parla. Si sta andando a tagliare i baffi. Ok, appunto, finiamo di parlare con quelli dell'Accademia, usciamo dall'Accademia, stiamo per andarcene, fino a quando non becchiamo la ex direttrice della Zenith qualcosa, che adesso è direttrice della centrale, che è... Leucum. Esatto, della... sì, Leucum. No. Che cazzo Austin. Dite, maledetto Danny voi? Austin. Non lo so, questi mi dicono di sì. Vabbè, Danny Duster, che è anche la tutor dell'amico di... Tutto questo perché non mi ricordo il nome, come si chiama lei? Alessandra Mukelos. Grande. Alessandra Mukelos. Becchiamo Alessandra Mukelos e giustamente Miff, da quale stronza che è, dice perché non tiro una magia per vedere che abilità? Così, per sport. La fa... Infatti meno danni, viene... Peccata, chiaramente, cioè nel senso Mukelos capisce che qualcuno sta facendo qualcosa e a quel punto Adone prende le redini, che in questo caso è una cosa negativa per il semplice fatto che a fine discorso dice ah sì Silas, certo, mio marito, va bene, bravo Adone, sempre gay, ma comunque ce ne andiamo, ce ne usciamo. E aspetta, metà del party ha scoperto che tuo marito è lì, esatto, è vero, esatto, cosa importante. Dopo quasi un anno di campagna, credo, esce fuori questa informazione, effettivamente, che è un po' importante. Detto questo, dopodiché decidiamo di tornare da nella cattedrale, insomma, dove troviamo, non mi ricordo il suo nome, il mio personaggio preferito, Ora. Dove troviamo Ora, che sta facendo buchi nella chiesa e che... sta facendo non si sa quale sortilegio al povero vescovo che, mannaggia, cioè, poverino, dai, non ha fatto nulla. Risvegliamo il vescovo che sta bene. Raccontiamo un po' la situazione ad Ora, diciamo, vabbè dai Ora, vieni con noi al tempio a scoprire la maledizione del teschio. Dopodiché torniamo al tempio, appunto, rivediamo la tipa, ci parliamo. E ci dividiamo perché a quanto pare uno deve stare, almeno uno devono stare su, perché non sia mai che arrivano gli altri tre che abbiamo invitato noi. Voi state in due. Andiamo su, giù. Sì. Perché ci vuole qualcuno con una teurgia. Esatto. Allora, rimane su Adone e Nibel, poi, e quindi vanno giù gli altri. Non risolvono nulla, tornano su, rimandano giù Adone, sta su Mif, Nibel rimane sempre lì dov'è. E risolviamo finalmente il puzzle nella maniera più stupida possibile, ovvero facendo cadere 369 gocce di sangue per indicare i secondi. Pare Arva che si dice nessuno è stato così stupido in tutto, e io sono il dio del tempo, quindi io conosco tutto. Ora però siamo nella stessa dai, imbattante. sei primo in qualcosa finalmente. Beh. Ottimo ricap. Perché finiva lì la sessione. Sì, infatti, adesso siamo nella situazione imbarazzante che abbiamo Arva, Adone, Ora e sì, Nibel e Lieto, e gli altri due sono su. Partiamo da quelli su? Sì, dai. Per voi sono passati alcuni minuti. Non so se avete fatto conversazione tra di voi, se avete interagito con la gente che c'era lì. Quello che vi scuote, sì, è il fatto che a un certo punto sentite un terremoto fortissimo, cioè proprio una roba che nella vostra memoria non c'è mai stata così forte. Tra l'altro considerate che siamo in un mondo senza grattacieli, quindi i terremoti non non è che si sentono così bene, cioè devo essere proprio forte per sentirlo. Che dal pian terreno, voi mi insegnate, si sente meno che al settimo piano di un palazzo dove sballo. Ok. E voi invece sentite il più forte terremoto che avete mai sentito nella vostra vita. Non ci sono danni, cioè non... Vabbè, cadono gli oggetti non fissati, però tipo le mura della chiesa in cui siete non vengono danneggiate, non ci sono danni strutturali, diciamo. E tutte le persone che ci sono lì, voi compresi, cadono per terra perché le vibrazioni sono così forti che non riuscite a stare in piedi. Evitiamo di fare un roll per sta stronzata, facciamo che cadete e basta, va bene? No, io voglio farlo. Ti prego no. Please do not. Tocca. Ho fatto 8 più penso... Ho fatto veramente 8. No. È più di 15. Ecco, dipende da questo. Resistere. Resistere ho 0. Cos'è, dialettica, no? No, quello di forza. Resistenza. Perché ho dato... Sopportare, pardon. Sopportare ho 6, quindi... Ho fatto 14. Off by 1, mi spiace. E niente, tocca. Di pochissimo cadi per terra. Dunque sì, avete perso l'equilibrio e c'è questa scossa che dura nel tempo, dura 25 secondi, che per una scossa è un tempo assurdo, è tantissimo. Che fate? Io penso che Mith si sia cercato di attaccare tipo a Dibel per stare sopra, però sono piovuti tutte e due a terra. Ma stiamo mentre la scossa... Esatto, colpa mia che siamo caduti. Poi si agire mentre che dopo, cioè dura 20 secondi, sta cosa dura un sacco. Cioè, penso che mentre Mif, cioè comunque sia a terra, non cerca di alzarsi, ma cerca di stabilizzarsi, insomma. Anche perché dice, che cazzo sta succedendo? Io guardo il soffitto più che altro per vedere se rimane intero e faccio da scudo a Mif. Oh! Come dicevo, ovviamente Nibel non poteva saperlo, però il soffitto regge a questa cosa e non viene neanche crepato. Non ci sono detriti, non c'è niente. Molto strano. Sì. E termina il terremoto. Vi potete rialzare con calma, siete scossi ora per una questione più psicologica che fisica. Ok, senti Mif che sta ansimando. Cioè, tipo, non attacco di panico, ma mette attacco d'ansia. Anche perché io penso che di terremoti non ne abbia sentiti. Non so, Nibel, se ha mai avuto a che fare con i terremoti. È una zona relativamente sismica, quella dove state, però non così forti sicuramente. E... cioè... è comunque un evento raro, perché ci sono dei sistemi per evitarli o comunque prevenirli, sì. Magicamente ovviamente. Però so cosa vuol dire stare in mezzo al terremoto. Quando finisce rimango ancora fermo un attimino, aspetto che sia effettivamente tutto calmo, anche qualche secondo dopo. Guardo bene la struttura per evitare che cada qualche macigno. E poi mi alzo e porgo la mano a Mif e le chiedo, dovrebbe essere finito. Tutte le altre persone sono corse fuori alla prima occasione, ve lo dico, quindi rimanete solo voi due se non uscite. Vedi che Mif ha ancora un po' gli occhi, insomma, sotto shock, ce li ha un po' più aperti del solito. Insomma, ti porge la sua mano tremante, pian piano si alza e fa... dobbiamo andare a controllare gli altri, magari sottoterra è stato peggio, e inizia a guardarsi tipo su, sembra reggere. L'edificio sembra inconsciamente si fa più vicino a te. Le strutture antiche fortunatamente sono abbastanza solide. Dammi un attimo, prendo, vado fuori, guardo se ci sono Deimos, eccetera, eccetera, quelli che stavamo aspettando, se li vedo a distanza. Tra l'altro, do un'occhiata anche do un'occhiata anche alla popolazione per vedere se è una cosa isolata, visto che già abbiamo avuto a che fare con qualcosa che prendeva soltanto il tempio e basta, oppure effettivamente le scosse sono sentite in tutta Peira. Allora, ovviamente non è che puoi andare a chiedere alla gente ad Apeira da questa distanza. No, no, ma guardo, sto guardando, per, cioè se vedo per strada la gente che corre, cioè, mi faccio un'idea. Esatto. Mentre all'esterno di questa struttura c'è la gente che ha proprio riempito i posti lontani dagli edifici, quasi... per un istinto naturale da stare lontano alle cose che possono cadere, non c'è la stessa cosa in città, c'è la stessa cosa nei posti vicini alla collina dove siete, cioè la gente è per strada vicino alla collina. Ok, posso farmi l'idea che sia una roba isolata al colle dove c'è il tempio, quindi. Sicuramente l'epicentro è lì dove siete voi, quantomeno. Ora Nibel non so quanto userebbe questo termine, però sì, no, beh, comunque come minatore, secondo me, per quanto riguarda la conoscenza del terreno, queste robe qua, secondo sì, me sì, sì, sì, cioè, un po' di esperienza ce l'ho. Esatto, a livello concettuale sì, a livello di semantica magari meno. No, no, certo, certo. Non vedo Deimos e gli altri, no. Che... ok, allora ritorno dentro da Mif. Non vedo gli altri, ancora non sono arrivati. Tra l'altro sembrerebbe che i tremori siano legati alla zona del tempio, nello specifico. Può darsi che sia stato qualcosa che hanno causato gli altri giù. Ok, a questo punto Mif annuisce e cerca di aprire la porta. Si apre normalmente, come ti ricordi, e potete iniziare a scendere. Se questo tipo vedete. Manapenny per la luce e diciamo che Mif fa un passo sostenuto. Ok. Io entro, entrando guardo sempre fuori e dando un'occhiata per vedere se c'è qualcuno, poi scendo giù anch'io. Perfetto. Passo agli altri. Giusto? Prego. Ho bisogno di un secondo. Uno, finito. Vabbè. Tra l'altro il tempo che ci mette il cazzo di bot a fare le cose che deve fare il bot. Thanks bot. Bottare. Le voci! Quanto mi piace sta canzone. Porco Dio, Toby Fox, facciamo un bambino. Sì, veramente. Davanti a voi c'è una figura che vi ho descritto l'altra volta, ma facciamo un breve recap. Uomo, cioè, oggettivamente ha un fisico maschile, sbarbato, estremamente muscoloso, cioè le braccia sono muscolose in un modo quasi innaturale, cioè pompatissimi i muscoli. La pancia non ha gli addominali perché ha un accenno di pancia, però comunque si vede che è un fisico muscolosissimo, i pettorali ci sono. È alto 1,86 m circa, quindi lieto è più alto per capirci. Ha i capelli molto gonfi, sembra, non dico una criniera, però molto vivi. Chiari, chiarissimi, bianchi e con i riflessi di luce che emana il tempio sembrano azzurri, cioè sembrano i riflessi azzurri. Ha dei tatuaggi, in particolare più notevoli sono quelli sulla faccia, che fanno questa forma qua e sono rossi, ma altri tatuaggi sul corpo. Al momento voi lo vedete solo dal davanti, quindi non avete idea di che cosa, se abbia dei tatuaggi dietro. E è a petto nudo e indossa una specie di gonna, chiamiamola, abbastanza spessa. Di nuovo, il colore è tra il chiaro, sul grigio chiaro, però con i riflessi del tempio sembra azzurrina anche questa gonna. È scalzo e vi guarda dall'alto in basso per il semplice motivo che sta scendendo all'interno della stanza e poi una volta che sarà arrivato vi guarderà ad altezza, la stessa altezza vostra, tranne il lieto che è più alto. Aveva detto già, ne ho visti tantissimi di puzzle risolti, ma mai così male. E poi aggiunge, deduco che voi non sappiate a cosa serve questo posto. No. Serve per chiamarti, no? No, ognuno dei templi a me intitolati svolge una specifica funzione. Questo Kronos non l'aveva detto. Già, quindi è più che l'avete dimenticato, non che non lo sapete. Questo è il tempio per evocare il mio prossimo avatar. Ah! Che... a questo punto immagino sia diventato Cronos. Uno di voi tre. Non vedo Cronos qui intorno. Ok. Giustamente. Cioè, ora che fa? quello è un NPC. Sono io. Sono... non parlare così di Adone. Divertente della campagna. Tiro un pugno ad Ora, no, non è vero. Basta. Guarda un attimo Lieto, guarda un attimo Ora e dice... Ah, questo sì, forse sarebbe stato utile saperlo prima. Beh, possiamo farti delle domande? Prima... Abbiamo tutto il tempo che volete. È un po' slacazzato. Io non ho sentito niente, scusate. Abbiamo tutto il tempo che volete. Ah! Non è sì, caso, l'abbiamo. Fair, avete dimenticato... Beh, niente, scusate. Ah, vabbè! Continua a farlo questo gioco finché tutta la sessione di questo gioco oggi forte, 30 forte. Secondi e intanto un paio di domande di circostanza. È obbligatorio che qualcuno diventi un avatar adesso? Mi rolli un D10 per favore, mi sono dimenticato una cosa fondamentale. Questo è arma. È obbligatorio nella misura in cui mi sommi la tua mente. Praticamente mi pare 8. No, 7. Perfetto. Ricordi, non è Arba che ti parla, è il master. Ricordi che da ragazzino avevi una governante, chiamala come cazzo vuoi, che faceva certe cose? Yes. Il vibe di quelle cose è identico al vibe che ti sta dando Arva. Il vibe. Ok. Not a bad vibe. Ti ho solo detto questa cosa qua. Perché hai fatto 7. Okay. Diceva. Lo realizzi mentre racconta questa cosa. Alla fine di ogni rituale c'è un effetto. L'effetto di questo rituale è creare il mio prossimo avatar. Ormai abbiamo innescato tutto il processo, quindi sì, è necessario che venga nominato il mio prossimo avatar, a maggior ragione visto che in questo mondo non ce n'è più uno. Cronos è sparito? Da lungo tempo Cronos non era più il mio avatar. Sì, sì, l'aveva già detto e si è anche litigato in vita privata, quindi... No, ma infatti, quello l'avevo capito. Adone chiede, quindi l'altra volta chi è che è diventato avatar di noi? Cronos. Ah no, allora ho capito bene. Ok, scusatemi. Ok, ci sono. È normale che tu l'abbia dimenticato. Usciamo un attimo dalla stanza. State scendendo lentamente, cioè velocemente dalle scale, avevi detto, a passo svelto, e noti che le spine di metallo che uscivano dalle pareti vibrano come dei diapason. Ok, fanno anche una specie di suono vibrato, metallico. Però sono ferme, cioè sono ferme posizionate lì, ma vibrano. E man mano che scendete, noti che dove c'era il cubo, il santuario, adesso viene una forte luce azzurra, quasi accecante, come se fosse pieno giorno. Per cui il manapenny non serviva. Cioè, dopo i primi 20 metri. Penso che Milfa tipo si copra un pochino gli occhi e fa, oh mio Dio, ce l'hanno fatta veramente. Penso che si butti, insomma, cioè non aspetta nemmeno Nibel questa volta, mi sa. Nibel cosa fa? Io la seguo, cioè quando vedo che accelera il passo, accelero il passo anch'io. Ok, ritorniamo dentro. Stavi dicendo, Adone? I forgot. Sì, esattamente. No, mi sono dimenticato perché l'ho già visto. No. No, scusami, Ika, vuoi fare tu delle domande? Sì, cioè... Se vuoi vai. Se non ne hai... Se non ne hai... Ok, va. Cioè, ne ho, ma vai tu, intanto. Ok. Che cosa comporta, quindi, il lavoro dell'avatar? Cosa sarebbe incaricato di fare? Sì, ci sono degli incarichi. Dici in generale o il mio avatar? Il tuo avatar. Il vostro avatar? Il vostro avatar. A me interessano solo due cose. La prima è non morire qualunque cosa succeda. E la seconda è mangiare. E che cosa mangia lei? Nel corso di innumerevoli vite ho provato un po' di tutto e ho scoperto che la cosa che più mi dà gusto sono le altre divinità. E come si mangia una divinità esattamente? La versione semplice è che il mio avatar deve uccidere il loro avatar o le loro manifestazioni e poi io prendo possesso del suo corpo per finire il lavoro. Immagino che le divinità cessano di esistere dopo che le mangi. Sembrano Adone è titubante, non è sicuro di quello che sta dicendo. Sta guardando in una direzione come se stesse reminiscendo di un passato lontano e dice... Sono più come i pesci volanti sopra le nuvole. Pesci luna forse nel vostro mondo? Se ne mangi un pezzo poi ricresce e non muore. E consumarlo tutto è difficile perché ci sono un sacco di parti che sono difficili da mandare giù. Capisco. Is he winking or... No, questa persona serio? Non conosce sarcasmo, probabilmente. Ok. Quando si parla di mangiare, quantomeno. Guarda, si parla io di mangiare... so come è un pesce luna. Pesce... No. Boh. Il pesce volante sopra le nuvole sicuramente no. Quello sicuramente no, il pesce luna... Quando è stato scoperto il 1758 da Linneo, descritto, però probabilmente è più vecchio. Andate avanti che ve lo cerco. Vabbè. E... No, vabbè, non serve, non è così importante. E a questo punto Adone chiede: ma cos'è successo l'ultima volta che siamo stati qua? Cosa ne è stato di noi? Kronos è stato un po' vago. Per non dire vaga! Adone non fa questa scena, no, credo. No. Lo stava facendo per il vostro bene, immagino. Tuttavia, aspettiamo loro. In quel momento, da dietro di lui compaiono due figure nere, perché c'è la luce che gli sbatte contro, quindi due sagome, una piccola e una grande. Dall'altro lato voi vedete loro tre, Ora, che è stranamente silenziosa, Lieto e Adone, nel lato opposto della stanza, e vedete le spalle di Arva. Come dicevo, ha una schiena enorme, muscolosissima, e ha due segni che non si capisce se siano tatuaggi strani che partono dalla spalla, qua dalla... Non mi ricordo come si chiama questa scapola. Parte. Scapola, grazie scapola mille. Scapola, deltoide. Dalla scapola arrivano fino ai reni, fondamentalmente. Ah, in corrispondenza di dove ci sono i reni. E per il resto... È un uomo muscoloso, non altissimo, con dei capelli molto folti, chiari, con i riflessi azzurri, perché tutta la cazzo di stanza è illuminata da azzurro. Cosa volete fare? Suppongo che sia un successo. Ah, sì. Oh, sì, sì. Lo è. Tipo, mi fa... che annuisce piano piano. Lo riconosci? È come quando l'hai visto l'altra volta? Sì, era uguale. Se non sbaglio, Pianice, giusto. Quanto tempo? Già. Beh, insomma, dall'ultima volta che mi hai chiesto di liberare a quanto pare il tuo discepolo. Se era la strada più veloce per arrivare a questo punto. Immaginavo. Ormai ho capito quali sono le vostre tecniche di avanzamento. Si gira, quindi da ora le spalle a voi tre. Per parlare con Mif, e aggiunge: come diceva loro, è necessario nominare il mio prossimo avatar. Cosa? Vedi, se... visto che sorride digrignando i denti, cosa? Questo era lo scopo del tempio che avete attivato. Non certo che però non poteva posto. Menzionare. Infatti. Come? Non puoi scegliere di nuovo Kronos? No, deve essere presente. Perfetto. E che cosa è necessario per diventare un avatar? Cioè, è tipo... Sì, lo voglio essere io and I am the avatar. Se sei d'accordo e io sono d'accordo. È un contratto tra due entità. Ok. Un contratto redatto da chi? Non quel genere di contratto. Ok. Credo di essere ciò che c'è di più antitetico nell'universo ai diavoli. Tipo Mif che fa spallucce piano piano, insomma, cammina verso... Sara? No, no, cammina verso di voi. Verso ah, di... ok, verso ho di voi. Ma io ho capito, cammina e poi ti ha tagliato lì. Oh no, Arva Gotter! Di Ops! No, cammina insomma per stare al vostro fianco, ecco. Così non deve continuamente girarsi, anche se sarebbe funny. E niente, cioè, Miffy incrocia le braccia e fa... Beh, quali sono i requisiti? Nessuno. Lieto prima chiedeva quali sono i compiti e deve semplicemente assicurarsi che io non muoia, ma non è una cosa che potete decidere voi. E l'altra è fornirmi da mangiare. È un compito quello, quindi, però, cioè... Sì, sono le due cose che mi interessano e un avatar deve aiutarmi a farle. E in cosa comporterebbe diventare un avatar? Chiaramente io lo so, Nibel lo sa perché non c'era quando l'ha descritto. Beh, avrai una frazione dei miei poteri e un bersaglio sulla testa. Bersaglio di chi? Di tutti quelli che vogliono diventare un avatar o vogliono uccidere un avatar o vogliono usare un avatar. Usare? O le persone delle centrali, immagino. Infatti. Sì, questi sono gli ultimi che hanno avuto la brillante idea di usarli in quel modo. Nel corso della storia li hanno usati in modo più divertente. Tipo... Per esempio? Per le guerre. Ah, fair enough. Come armi? Sì, fondamentalmente. Come oggetto d'armi? Interessante. In tempi di pace non, evidentemente non c'è più bisogno. Ti chiedevo cosa sia successo a noi l'altra volta. Non è così interessante sapere un futuro che non si realizzerà. O sbaglio? È un futuro che non si realizzerà o è un futuro che non è ancora avvenuto? Beh, avete già deviato dalla strada che avete percorso l'ultima volta. Però potrebbe avere lo stesso risultato. E prima o poi morirete tutti comunque. Adone a questo punto si toglie il guanto, più per scena che per altro, e mostrando le dita di metallo chiede molto sfacciatamente: questa cosa mi ucciderà presto? Vuoi rollare un D10 o lasci che succeda quello che sta per succedere? Accetto il destino. Non, c'è... non so che dire. Tendi il braccio. Devo rollare. Tendi il braccio verso Arva, giusto? Per fargli vedere le dita. Sì, gli faccio vedere così. Non è che. Ok, ok. E lo vedi flickerare. Cioè, si muove a una velocità che non è di questo mondo. È fuori da ogni umana possibilità accelerare in quel modo lì. È come se si teletrasportasse davanti a te, cioè un millimetro da te, ti solleva, ok? Ti tira su per il braccio e tira un morso alle tue dita, staccandole di netto. Non senti nulla, non senti dolore, non senti niente, e frantuma ogni parte di quel metallo lì. Ti lascia andare, puoi scegliere tu se cadere per terra o altro. Cade per terra, Adone, chiaramente, che cazzo! Cos'era, l'indice e il medio? Sì. Beh, dai. Così. Le mie dita! Le sta masticando. Crunch, crunch, crunch. Sì, noto che potrebbe essere un problema avere questa roba dentro di te. Ma... A me serviva! sopravvivano quelle, per quanto fossero fatte di metallo. Le mie dita. Non avete le macchine per farle ricrescere? Funzionano? Cioè... Dimmelo tu. Beh, effettivamente si può provare, cioè non ha tutti i torti. Non ci abbiamo, non ce l'abbiamo ancora provato, I guess. Però hai detto che non credo tu mi abbia tolto qualsiasi cosa ci sia dentro di me mangiando le mie dita. Stavo cercando di capire cosa fosse. C'è un che di divino. Ma non solo. Dove si estende questa cosa? Cioè, Adone si tira un po' sulla manica, però fa vedere. A dire il vero, solo quelle due dita. Non credo che le mie ossa siano di metallo. Non mi sentivo più pesante, giusto, Biani? Sì. Sì. No, ok. Avevi fino alla spalla. Esatto. Se vuoi mentire alle divinità, puoi farlo. No, perché vabbè, ormai. Adone, che se uno dice. Scusate, rettifico. Forse le mie ossa. Il braccio è un po' più duro, ma non lo so. A meno che tu non voglia mordere. Pinky? Io lo posso guarire, eh? Non sono una guaritrice, posso farglielo ricrescere il braccio, non c'è problema. È ora che parlo. Non l'intero braccio, magari. Si sta proprio leccando le dita, è proprio molto felice il nostro... Dimmi tu, Adone. Stavolta si gira verso Mif, visto che è la mia esperta, quella che sta seguendo la mia situazione. Vedi Adone comunque un po' titubante che dice: secondo te vale la pena tentare? Beh, qualsiasi cosa sia ce l'hai anche in testa, quindi... Cioè, proprio Biffa, Adone sta facendo dei sogni particolari dove vede questa divinità macchina che dovrà sorgere. Fatta di elettricità, di qualcosa del genere, lancia folgori. Mi ha folgorato, lancia folgori. E... Pensi che abbia bisogno di una spiegazione? Noi non sappiamo cosa sia, poi se tu sai cos'è, illuminaci. Già di più quanto tu stia facendo con la luce. Lo hai sentito dire qualcosa? Sì. Scusa? Sì, effettivamente. Non me lo ricordo! Aveva detto qualcosa. Un viaggio nel tempo. Vabbè. Allora aveva detto. Io me lo sono segnato. No, aveva detto tipo. No, dai, ce lo siamo segnati. Forse. No, ma era ancora la Spezia 2 mesi fa. Ho cercato, cioè... Dio, e ci sono uscite un sacco di bestemmie, quindi magari cerco un po' più specifico. Bello l'italiano, Sì, aspetta che vedo se ce l'ho scritto da qualche parte su Telegram. Non guardate me, non prendo appunti per la mia di campagna. Veramente? Non l'ho scritto? ma era un sogno in particolare che ha fatto Adone. E quindi la sessione l'abbiamo fatta... quella che avete fatto solo voi due, mi sa. Sì, esatto. Okay, sì. Adone si muove un po' la tempia e dice... Diceva qualcosa sulla rinascita di questo dio meccanico. E... Rinascita? Rinascita. No, sì, rinascita. Secondo me era rinascita. No, secondo me era nascita e basta. Ok. Era nascita. Fanny, ok. L'ennesimo grammo di stupidità in un contenitore già pieno fino all'orlo. Oh, ma porca troia. Allora si sente insultato. Non stai insultando te, eh? Ah, chi cazzo... Ah. The guy from above! Immaginiamo. Ah sì, appunto, Adone dice, c'era anche una mano meccanica enorme nel cielo, ma... Beh, posso sbranarti vivo, oppure puoi vedere cosa succederà. Per me è indifferente. Quindi tu saresti disposto a curarlo senza avere niente in cambio? Sì, non mi faceva schifo il sapore. O solo mangiarlo è abbastanza per te. Sì, sì. Alla fine è comunque un dio. Cos'ho in corpo? Difficile da spiegare. Tante cose. Tracce di semenza diabolica, un po' di divinità sparsa e un metallo che non riesco bene a identificare. Non credo di averlo mai mangiato prima. Quindi il metallo di Oclic è nuovo anche per voi? Sì. Oh, questo non va bene. Mi avevano diagnosticato il picacismo, eppure non ho mai mangiato niente del genere. Strano, vero? Farmi sbranare sarà doloroso? Dipende quanto funzionano ancora i tuoi nervi. L'altra volta non l'abbiamo fatto, se ti interessa. Direi di non farlo anche questa volta, tipo Miff che si gira verso Dadone come per dire, secondo me è una pessima idea. Però sei un dio. Sei un dio, è necessario mutilarlo per mangiare quello che ha dentro. No, però non mi diverte l'alternativa. E come dicevo, non voglio nient'altro in cambio, quindi la mia soddisfazione vale qualcosa, no? Lui morirebbe? No, non credo. Oh, ok. Non credi? Dipende, il dolore può creare uno shock nelle menti deboli che le uccide, però... Non sarebbe il risultato della tua azione. Sì, esatto. Sarebbe una spiacevole conseguenza di un corpo difettoso. E se diventassi tuo avatar? Beh, come una brutta malattia, svilupperesti degli anticorpi che caccerebbero tutto il contenuto estraneo nel tuo corpo. E un avatar sarebbe in grado di guarirlo? Dipende che tipo di avatar, non tutti sono uguali. I miei mangiano le cose, tendenzialmente. Anche un tuo avatar sarebbe in grado di curarlo, quindi. Sì, avatar che attualmente non esiste più. Nel senso, siamo qua per questo. Oh mio Dio. Ne ho avuti diversi, essendo un potere così variegato il mio, gli avatar tendono a diversificarsi molto. Miff si rivolge leggermente ad Adone e fa: se decidi di diventare tu, significa che poi col cazzo che ti diamo in pasto con gli altri. Questa è una meravigliosa osservazione, Miff. Cioè, non possiamo permetterci più nient'altro. Però questo sarebbe un modo assicurato per curarmi? Non ne hai la conferma. Ti ha detto che la espelli. Però chissà il procedimento com'è. A questo punto guardo Arv e gli dico: se mangiassi un po' più di me, sapresti dirmi qualcosa di più sulla malattia, sulla piaga che mi affligge? Possiamo provare. È perché non lo sai o perché non lo vuoi? Non vuoi dire di più? È perché l'altra volta non ti ho consumato, quindi non ho già vissuto questo momento. E dal primo morso non sono riuscito a comprendere tutto. Era veramente confuso. Adore guarda Miff, un po' indeciso. Miff guarda ora, tipo come per dire... Tu quante capacità hai? Lo posso curare. Ora. Sì, no, grazie, ora. Di quanto? Per anche quanto anestetizzarlo? Infatti, esatto. Puoi, tipo, imbirlo? No, posso dargli un colpo in testa e farlo svenire. No, preferisco nei romanzi. Ho sempre i miei sedativi, dice Luna. Non è una buona idea. No, e non mi fanno sognare. In quel caso i sogni te li controllerei io. Però, secondo me, può essere... si può fare. Se ti offrissimo qualcos'altro, gli estrarresti la malattia senza sbranarlo. Hai altre divinità portata in mano da offrirmi? Non so se ho altre divinità, ma... ho quante braccia vuoi. No, purtroppo la cosa che fai tu non rientra nel dominio di quello che mi interessa. Collegamenti divini, Nibel? Intendo... cioè, indico i funghi che ha in faccia, come per dire. Non mi interessano. Evidentemente sono un semplice incantesimo per lui. E se fossimo di nuovo veicolo di quello che vuoi che venga compiuto? Perché la prima volta mi pare che tu non ti sia fatto tanti scrupoli a chiedermi di venire qui. Sì, perché sapevo che sarebbe stato il modo più veloce per arrivare a il mio prossimo avatar e quindi alla mia prossima cena. Al di là di quello che voglio fare io con il mio corpo, dobbiamo comunque decidere chi diventerà avatar. Già, non ve ne andrete di qua finché non avrete deciso. Il tempo è fermo? No. Io non sento più la musica, scusate. Si è fermata, si è stoppata. Non era un solo mio problema. Sì. Dobbiamo scegliere prima che arrivino Deimos e gli altri. Non vorrei che abbiano voce in capitolo sulla scelta. No, chiaramente no. Che potrebbe essere un problema. Ma sarà un problema. In tutto questo. Buona. Sto confondendo. La nostra amica della Santa Chiesa. Sì. Cosa ne pensa di questa cosa? Lei è di larghe vedute. Risposta criptica, cioè. La nostra amica della chiesa, scusate, no. Ora. Ah, ok, ora. Che avevo capito bene. Era negazionista degli dei, quindi. Adesso... che c'è un dio davanti, quindi era tipo... yeah, sure, un martedì mattina, come funziona? Allora, no, raccontiamola per bene. Lei continua a detestare visceralmente i cultisti, cioè quelli che usano la religione come... strumento di guadagno o altre cose del genere. E vabbè, mia sorella in Cristo, siamo in... Sì, sull'esistenza degli dei, la roba di Cronos nel tempio l'ha abbastanza convinta. Ok. Quindi ce l'ho solo con gli ebrei, non con... Prendo le distanze da questa affermazione su un personaggio che potrebbe o meno essere un self-insert. Non può neanche... vabbè. Ok, no, vabbè, comunque ho capito. Beh, la scelta è tua, Adone. E se per voi non c'è un problema, l'avatar lo faccio io. Se dovessi diventare avatar, io verrei curato da questa cosa. Probabilmente troveresti un modo per farlo. Non immediatamente. Non mi interessa. Ormai ci convivo. Sapere che mi sta consumando mi fa sentire vivo. Capisco la cosa al contrario. Consumare qualcosa per sentirsi vivo. Ogni volta che guardo il mio braccio rinnova la mia rabbia. Sì, questo non è l'ideale per un avatar del dio del tempo. Serve qualcuno di paziente. Mi sta guardando. Indico lieto con un punto di domanda sopra la testa. Esatto, anche Biffa era tipo. Sono molto paziente, eh. Attenzione. Non puoi Sì, e fai entrare anche ora. buchi nelle chiese. Per Sì, passare il non sei tempo. affidabile. Non sei affidabile ora. La giochiamo a sasso, carta e forbici. Scusa, se lo diventassi tu, Mif? Io non mangio la gente. Mi sono rifiutata già la prima volta col ca. Cioè, no, non lo faccio la seconda. In più sono curiosa. Cronos ha menzionato Ielos sulla lettera. Vorrei vedere come incontrarlo in realtà. Così importante? Beh, per quanto mi riguarda, io ho un destino già segnato, quindi ci può fare tutto. Posso fare tutto quello che voglio, tanto la meta è sempre quella. Ti vorrei ricordare che mentre lo scorrere del tempo è qua davanti a te, è libero di fare quello che vuole, la signora del destino è rinchiusa in una centrale. Quale? Ho bisogno di un secondo, ed è lui che guarda nelle linee temporali. Lì si tira fuori un'agenda, tira fuori degli occhiali comicamente piccoli, se ne mette addosso e dice: Allora, vediamo un po' la signora del tempo. Ti prego. Pace per stai, a coso, quell'idiota di Giocondo. Laxis donna. Sarebbe Cazzo è l'Axis donna? Sparta. Ah, cazzo, è qua vicino. Starà in È sta molto zona. vicina. Infatti è molto vicino. Beh, io direi di metterla a votazione comune. Non mi sento la persona più paziente a riguardo. So se mi piace l'idea di Lieto che diventi avatar del tempo. Ti fidi di più di me? Wow, grazie Adone. Vedi che mi fa sorridere, insomma. Oh fuck, quella ci ammazza tutti. No, no, No, infatti, Adone, Adone sta rimpiangendo no, tutto. no, no, no, ragazzi, non vi ammazza, Oh però mio lo Dio. utilizzerà per i suoi mezzi sicuramente. Beh, perché Lieto invece? Esatto. Mif, cioè, fa spallucce, fa. Mi aiuterà per sapere di più? Tu mi hai promesso conoscenza. Ti darà tutto il tempo che ti serve. Con questo l'hai comprata, Mif. Non so se hai presente quando, cioè, tipo, dai le caramelle ai bambini. Uguale! Con questo Adone l'hai guarda comprata. Mif e poi guarda Arva e dice: Se io invece diventassi il tuo avatar, avrei il potere per aiutare la persona a me cara? Sarebbe strano, perché prima o poi ti chiederei di mangiarlo. Oh cazzo. In che senso? E Adone è tutto sbianca. Hai tutti i frammenti del puzzle che ti servono. Oh mio Dio, tuo marito è un avatar. Tipo biffo così. Adone guarda un attimo Mif, poi abbassa lo sguardo. Io non ho legami con nessuno, eh? Cioè non ho conflitti di interesse. Posso benissimo fare l'avatar senza Stai zitta, esagerare. suora. Ok, vai. Allora, sit Sei stato un down. ottimo avatar. Piuttosto ora usa i tuoi sensi per vedere se senti qualcuno fuori. Ah, La dici. tua percezione magica, quelle cose lì che fate voi praticanti Siamo di magia. dentro una roba di luce che emana magia costantemente, non capisco un cazzo da qui. Quindi non riesci a sentire se sta arrivando qualcuno da fuori. No, non riesco a sentire neanche la sua energia, indicatore. Allora faremo la vecchia maniera. Mi fai ancora la moneta luminosa? Sì, Mi ce sa che non ci l'ho. siamo capiti, finché non mi date un avatar, nessuno esce di qua. stanno decidendo come fare. Io non sono uno di quelli adatti per diventare avatar. Stai certo che qualcuno lo diventerà? Se decidiamo chi di noi sarà avatar, dopodiché rimarresti qua comunque per sbranarmi? Poi lo potrebbe fare l'avatar. Guardo Lieto! No! I mean... No. Che differenza c'è? Chi ti mangia a questo punto? A prescindere da chi di noi diventerà avatar, rimane il fatto che ci sono delle persone che sono fuori che non devono diventarlo. Quindi per favore, Alva, farmi fare da guardia almeno alla porta. No, mi piace l'idea che abbiate un limite di tempo e compare una piccola clessidra sulla sua mano. Va bene. Questa no, è la preferenza tu? Sì, esatto, infatti, tu hai una preferenza, grande Dio? Uno di noi sicuramente non si farà catturare facilmente. Però no, penso che troverai divertente tutti e quattro gli scenari possibili. Avresti qualcosa in contrario a lasciare questa cosa alla sorte? La divinità della sorte e fa esplodere la clessidra. È rinchiusa, quindi immagino che darle un piccolo tributo non sia un problema. Ce la giochiamo a dadi. Chi è che lo vuole... ok, chi è che lo vuole diventare? Io, adesso stiamo parlando. Ora! Non è ora. Liberati. Seriamente parlando, cioè fuori game, seriamente parlando. Adone non può diventarlo. Infatti, ma tanto Adone, cioè, se non se lo mangia lui, suo marito, se lo mangerà o chiunque sia la persona in questione, se lo mangerà qualcun altro, quindi cioè... Sì, però è una cosa, se lo mangi Adone. È diversa, cioè, perdonami. Esatto. Meglio tu che un altro. Allora, una cura per Adone ce l'abbiamo, quindi nel senso, nel momento in cui si riesce a più o meno sistemare sta cosa, quindi cioè, secondo me Adone ce l'abbiamo a bolla. Io come giocatore chiaramente sì, però come Nibel, cioè Nibel è indeciso sulla cosa, perché chiaramente cioè, è una persona che ha già la sua lapide bella pronta lì, è già pronto in qualsiasi momento a morire, a fare una fine di merda, però per portarsi dietro le giuste persone con sé nel frattempo. Quindi il fatto di avere uno strumento come quello di diventare avatar per fare più danni possibile certamente gli può essere d'aiuto, però allo stesso tempo appunto c'è questa cosa del perdere se stesso, diventare qualcun altro, perdere la sua motivazione, i rischi di diventare potenzialmente immortale, il fatto di perdere quella mortalità gli fa perdere senso alla sua missione, diciamo. Ci sta. Per quanto riguarda Myth, come ho detto, cioè, è stata comprata, nel senso, nel momento in cui hai un tempo illimitato per raggiungere il suo scopo, che è riuscire a capire tutto, ok? Tutto. E forse, adesso che ci penso io da player, può essere una possibilità di evitare di andare dove andrà Myth come personaggio. Io, Sara, ho timo di questa scelta. Io, Sara, personalmente, per il personaggio, secondo me, cioè, ci sta che per la sua fame di conoscenza faccia questa sorta di patto. Beh, cioè, sulla bilancia ci sono Myth, che ha già avuto un rapporto con Arva, con la fame di conoscenza, roba dei gemelli di potere, dall'altra parte c'è un mafioso curioso. È questo. Ma io sono curioso. Allora, Adone preferirebbe che fosse Nibel, perché è brutto da dire, ma al momento per Adone Nibel è una bellissima persona, anche perché abbiamo la pazza nevrotica, il mafioso con manie di potere, e Adone, cioè io da player, tra l'altro vi dirò, io in verità non voglio che Adone diventi avatar, semplicemente perché c'ha troppa carne sul fuoco, io voglio scoprire cosa cosa sono le altre cose di Adone. Secondo me diventare avatar di Arvan le bloccherebbe. Detto, Nibel probabilmente dal punto di vista morale, personale, non so se accetterebbe. Io, cioè, io come giocatore direi subito, dammi il potere del tempo, ciu, del tempo. Però, cioè, Nibel di per sé non credo che accetterebbe. Sto escludendo Nibel. Se la volete fare a sorte, ho 4 carte, una per ognuno di voi, che sarebbero Ora, Nif, Lieto e Adone. Stiamo davvero considerando Ora, però che sarebbe la cosa più comica della campagna. Se sì, sarebbe veramente sarebbe molto comica. Una perfetta sintesi di chi è Bjanic come master. Però io posso dire, sarebbe l'ennesimo NPC che morirebbe tragicamente, cioè... Allora, Beatrix! Beatrix! Ma che Ora non muore, dai! Farò diventare divinità del tempo, poi ne riparliamo. Esatto, è un grande mirino sulla testa, cioè dobbiamo essere consapevoli che chi avrà questa cosa, cioè 70% la possibilità di crepare, 30% di riuscire a fare quello che si riesce a fare. Vabbè dai, Kronos, cioè, è rimasto un cuore in una palla d'oro per 3000 anni, cioè, secondo me non è così grave. Esatto. Forse non è quello che è andata peggio. Esatto. I'm down, io mi candido. Invece che tutto questo, Ica non ha dato dei buoni motivi per... Esatto. A parte puro edonismo, che comunque condividiamo. Sì, sì, sì. Ho scelto a chi si mangiano gli dei, mi ha detto yes, sarà in character. Eh sì, è in character anche quella. Da adesso abbiamo 4 campagne parallele, una per ogni possibile scelta. Alla fine decidiamo quale tenere. Che già hanno abbastanza campagne durante la settimana. Dio Cristo. Dai, gioca con le 4 carte, I guess. Vabbè, ma tu dici anche Adone? Ma allora, io ti dico, io come player fallo soffrire di più sto cane. Cioè, se... Allora, il mio ragionamento è, se veramente esce fuori Adone deve soffrire e uccidere suo marito. Basta, è l'unica. Io poi... Allora, non lo so, sono convinto perché da un lato... Adone rifiuterebbe, credo, quindi non lo so, però se la sorte a deciderlo. No, però vabbè, penso, se non vuoi, tolgo. Se questa cosa deve succedere, preferiresti che la facesse qualcun altro o che la facesse Adone stesso? Adone, esatto, pensa a questo. Allora, qualcun altro. Adone è tipo dell'idea che, ok, anche se qualcun altro, uno, non è detto che succeda presto, cioè, perché nella sua idea, da quello che ho capito, ha detto vabbè, ci sono tanti altri avatar da mangiare, dai, lasciami stare mio marito, e ha una piccola speranza di qualsiasi cosa. C'è un po' cosa... di controllo sulla cosa, diciamo, cioè, finché non vai, incontri tuo marito, non te lo sbrani, cioè, c'hai questa... Il giorno che lo incontri è il giorno che lo devi sbranare. Sì, sì. Wow. Okay. No, dai, no, dai. Togli Adone. Allora, aspetta, lo chiedo a te, Bjanic. Quanto vuoi far soffrire ancora Adone? Secondo me questo è più inutile che... Cioè... Dai, toglilo Adone, voilà. Sai che carta aveva Adone? Il diavolo. Ovviamente. Ne rimangono 3. Tanto Adone si farà sbranare il culo fra poco, quindi... 33,3% di... Per ognuno. Periodico, wow. Di avere... Ora, come... Mamma mia, deve essere sempre così pesante questa campagna. Allora, ora. Nessuno di noi, io sto guardando da sopra, quindi nessuno di noi sa quale carta è. Come la scegliamo? Che non è mescalato in un'ora. Io sceglierei la centrale. Allora. Anche io sceglierei la centrale. Il cavaliere diceva sempre a destra. Destra questa. Che la nostra destra, una delle due destre. Ah, dinosauro, centrale, esterna. Ok. Che dinosauro? Bidossi. Io vedo perché dinosauro c'è Ica, tu cosa voti? Dinosauro, dai. Okay, due per... Aspetta, Bjanic. Quando la peschi, non farci vedere il risultato e ce lo dici in game. Ok. Allora, sicuramente non questa. Esatto, via. Non quella. queste due le mescolo. Vai, dinosauro o quell'altra? Sempre destra. Dinosauro. Dinosauro. Dinosauro. Io dico quell'altra. Anche Sara? Io dico quell'altra. Non si può fare, allora, siete io. In quattro, dovete... Allora facciamo... dai, dinosauro. Dio, dai. No, vado su Roll 20, facciamo... Sei visto? Roll di due, se esce dinosauro. Uno e dinosauro. Uno no. E l'altro... Dinosauro, no, no, ho messo scelta, dinosauro. Ah, che era dinosauro, vero. La tengo? Cioè, la tengo fuori o...? No, non faccela vedere, ce la fai vedere solo quando... Ok. Allora. Vai avanti, adesso ci dice Arma cosa pensa. Avete deciso di estrarre a sorte, per cui Arva produce una meridiana, una in più una in meno, la piazza sopra il cubo e gli dà una schicchera facendola iniziare a roteare. È un metodo antico, poco raffinato, ma abbastanza giusto, non trovate? Funziona, funziona. Ogni giro rallenta un pochino. Quando si ferma verso... quando non si ferma, quando passa verso Adone sembra tremolare. Quando passa verso Ora prosegue rapidamente. Quando passa verso Mif... c'era Mif, in mezzo sì c'era. Quando passa verso Mif la ignora, come se non riuscite a sentirla. E quando passa verso Lieto si ferma. Oh, la torre è la carta di Lieto. Ma io sapevo che avevo destinato la torre. Ovvio. Eccoci. Arva si avvicina, ti mette una mano sulla spalla, leggermente in alto perché sei più alto. Benvenuto nel club. La servirò fedelmente. Credo che ci vorrà un po' di tempo prima che il tutto inizi a funzionare. Cerca di non morire prima che succeda. E come riceverò le istruzioni? Quando mangerai la prossima divinità ci parleremo ancora. Fino ad allora dovrai inventarti qualcosa. Ti verrà tutto... un'ultima domanda. Sì? Ho saputo che c'è un altro tempio a... Oclica. Sì. Dei tuoi templi. E a cosa serve quel tempio? Quello di Oclica credo l'avessero fondato per la Zenith Tai. È più una versione sperimentale. Quello che fa è creare una singolarità temporale, credo che la chiamino. Ok. Grazie. L'ultima volta che l'hanno attivato è stata creata un'area con un loop continuo in cui la gente continuava a ripetere le stesse azioni lo stesso giorno della loro vita, no? Ritornando all'inizio ogni 24 ore finché qualcuno non l'ha interrotto. Okay. Non una delle mie opere migliori. Bene. Aspetta, dimmi. Prima che tu te ne vada, quello che... cioè, indico il braccio, come per dire. Ah, preferisci che lo faccia io? Non c'è problema. Prima, aspetta, se mi devi divorare per intero, almeno fammi prendere il sonnifero, così almeno non dovrei morire per lo shock dei nervi. Giusto. Vai. Guardo poi Mif e dico, preferisci essere tu a controllare i miei sogni? Oddio, devo vedere quanto manavo per rimanere, anzi. Solo che... credo che tu sia secco. Prendi il sonnifero. Ma io ho 7 di mana. Ah, ok, quindi potresti castarlo e poi andare a secco praticamente, che costa... Esatto. Sì, dovessi servire, possedo ancora delle droghe io. No, fai il sonnifero. Penso un bifero Eddie perché siamo della merda. Ok, allora Adone a questo punto si siede per terra perché comunque altrimenti sviene da in piedi. E allora dice: Here goes nothing, I guess. E vedi chi lo guarda, ovviamente, vedete che prende il sonnifero con mani tremolanti. Tu vai nell'oscurità più completa, subito, cioè proprio una roba quasi istantanea, e ti sposto un attimo. Visto che ora non ci può sentire, che è nel regno di Morfeo, volete sapere cosa ha dentro di lui? Sì, sarebbe utile. Il metallo è una specie di tecnologia postmoderna che non capisco come possa essere in questa linea temporale. L'altra cosa sono le ossa di una proto-divinità. Qualunque cosa gli stia succedendo sta diventando il bozzolo di un dio. Mangiarlo non servirà ad annullare questa cosa, prima o poi si riaddormenterà e ripartirà il processo. Quindi o lo levate dal mondo oppure accettate il fatto che avrete un simpatico dio in miniatura tra di voi. E questa è una normale conseguenza della malattia o Adone è speciale? No, non c'entra niente con la malattia. Le due cose devono avere una specie di traccia simile, quindi il dio è stato creato a partire dalla stessa cosa da cui è stata creata la malattia, ma sono fondamentalmente due cose diverse. L'altra cosa interessante è che ha le tracce di un diavolo, diciamo, e non c'entra Di niente con tutto quale? questo. È come se le due cose fossero state totalmente scollegate. Deve aver avuto una vita veramente strana, sto ragazzo. Quindi fammi capire, ha Sì. un metallo che non ha senso di esistere, ha un bozzolo di un dio e tracce demoniache. Le tracce demoniache sono per la cosa che gli è successa da bambino, quindi non gli ha fatto. Cioè, questo non ha triggerato la divinità. Non è stato il rituale. Ah, se esiste una specie di connessione causale tra le due cose, non ne ho idea. Non ho memoria di questo fatto. Quante di queste cose Adone le sapeva già e non ce le ha dette? In realtà credo Penso nessuna. nessuna. Penso nessuna. Anche perché nei suoi sogni era particolare. Nemmeno Quanto lui tempo sapeva ci da impiegherà quando nel caso la è stato. trasformazione di Adone? Non credo sia una questione di tempo, ma di inneschi. Quando succederà qualcosa, farà progredire la trasformazione, finché da bruco non diventerà farfalla. Questo vuol dire che se Quindi deve qualcuno segnare. lo mette in una situazione di pericolo potrebbe succedere oggi stesso, mentre se avesse una vita tranquilla potrebbe morire senza che succedesse mai questa cosa, senza che succeda mai Oh, questa ho cosa. notato. Esatto. Se lui diventasse il tuo avatar, potresti sovrascrivere questa nascita. Sì, non si può essere avatar di due divinità allo stesso momento. Wow. Però potrebbe tradirmi e abbracciare l'altra divinità. In quel caso penso sia sognare, cioè il progredire di questa evoluzione, perché ogni volta che sognava c'era qualcosa di diverso, quindi sì. Forse avverte una sensazione di pericolo quando sogna, tale da indurre la trasformazione. Sono dei begli incubi quelli che fa, sono molto interessanti. È per quello che prende i sonniferi. Sì, lo posso capire da quel punto di vista. E poi si gira di nuovo verso Arva, indicando Lieto. Quindi lo dovrà mangiare una volta che si è trasformato Adone. Se completa la trasformazione, mi farebbe molto piacere che tu lo facessi. Capisco. A quel punto non sarebbe più Adone, correct? Difficile Oddio. definire quando qualcosa smette di essere qualcosa e inizia ad essere qualcos'altro. Da queste parti ha un nome specifico questo principio. Si parla di barche. Ma a parte quello, credo che sia non dissimile da passare dall'adolescenza all'età adulta, quindi è un'altra persona, nel senso che è diventato qualcos'altro, ma ci sono le tracce della stessa persona. Non è stato cancellato completamente. Quindi è Adone, in poche parole. Sì. Onestamente penseremo al problema quando ce lo... quando verrà posto. Adesso bisogna vedere se conviene continuarlo a farlo sognare o meno. Bene. Peccato, avrei continuato la ricerca volentieri. Ultima domanda, giusto per divertirmi. Mi hai dato soltanto la punta dell'iceberg promettendomi tutto il ghiacciaio. Vorrei di più. Vorrei assegnarti altri compiti che possano mandare avanti il mio progetto, ma per ora credo che stando insieme, guarda, lieto, al mio novello araldo, troverai più informazioni che a fare qualunque altra cosa. Mi fido. Non si sta fidando, però dice mi fido. Se non vi dispiace, è qualche millennio, che, qualche secolo, diciamo, che non ho un banchetto, per cui... E mi siedo a terra, schiena sul muro, e mi accendo la pipa e... mi godo la scena, diciamo. Non ho più niente da dire. Allora... con questa musica. Sì. Ora... stacca sì. Se vogliamo. Stai ancora dormendo, oh, però sta finendo sta cosa. Ora okay. Sta castando la spell per c'è guarirti. Musica. Perché è figa. Sta castando la spell per guarirti. E mentre Arva con precisione chirurgica estrae solo ed esclusivamente le parti del tuo corpo infette. E alla fine rimane la tua pelle squarciata, però, cioè, okay. Sanguinante, molto sanguinante, però senza danni globali. Okay. Cioè, se ti avessero ricucito, non saresti morto comunque, perché ti ha solo estratto le ossa. Muscoli, il resto sono rimasti intatti. Ci ha messo qualcos'altro al posto delle ossa, spero. Assolutamente no, ma per tua fortuna ora è in grado di rigenerare i tessuti, compreso il tessuto osseo. E io, aspetta, io sono vivo adesso, cioè sono cosciente? No, stai dormendo, sei secco. Ti ho fatto tornare perché ti voglio bene, non ti volevo escludere più di tanto. Ah, grazie. Ok. Quando ha finito il banchetto, si pulisce la faccia dal sangue e dice: ah, già che sono qua, a voi frega qualcosa del tempio di sopra? E... qualcuno potrebbe lamentarsi con noi. Se quindi... una volta conosciamo persone che ci hanno a che fare, potrebbero lamentarsi con noi, quindi se devi fare qualcosa fallo dopo che ce ne siamo andati. Mio avatar e a parte di cioè, no, non ho problemi a riguardo. Again, se non ti dimagna le persone, se ne devi consumare. L'ho fatto al immagino punto che ormai sono stufo. In bocca al lupo col vostro viaggio. E esce dalla stanza, il tempio smette di brillare di luce propria, quindi diventa buio pesto. Ora accende immediatamente una luce e sentite i passi dell'uomo che esce. È uncanny il passaggio da questa situazione onirica stranissima al fatto che ora siete in una stanza buia. Il tempio è sempre rimasto il tempio o il tempio non esiste più? Il tempio è rimasto come dopo la prima trasformazione, cioè si sono riparate completamente le mura e le incisioni sono sparite, quindi ora è un cubo quasi perfetto bianco. Basta. Adesso quegli altri penseranno che siamo pazzi. Perfetto. Quando volete svegliare Adone potete svegliarlo, eh? Ah, cioè, pensavo che il sonnifero gli desse tipo 8 ore. Sì, ma gli avete anche sbranato un braccio, quindi direi che va in pari. Ottimo. Mif, tipo, fa poke poke sulla fronte di Adone. Ok, sto tornando, mi senti? Come mi sento, Bianic? Il braccio è completamente intorpidito, come se ci avessi okay. dormito sopra per una settimana. Ah no! Non lo muovi, okay. non lo muovi. E per il resto... pallido, tipo... se c'è proprio circolazione del sangue zero, devi rientrare il sangue... Sì, esatto. Okay. Per il resto sei stranamente leggero. Ok, Adonis si risveglia e dice... Ah! Cioè, che immagino anche se adesso non c'è... fa una certa sensazione il braccio intorpito, immagino. È amplificata, mi dice... Ah, il braccio, ah! Fa così, poi... No, meglio non toccarlo. Sono vivo? L'operazione è stata un successo. E quindi cosa vi ha detto Arva? E quindi non sono belle notizie. Beh, buone nuove. Esatto, non è l'infezione a cui stavi pensando. Questa è la notizia buona? Praticamente. Quella è la notizia buona, sì. C'è una divinità che sta crescendo dentro di te e probabilmente reagisce al pericolo. Di conseguenza, questa trasformazione avverrà soltanto se ti esporrai a queste situazioni particolari. Poi probabilmente non ha nulla a che fare con il tuo rituale, quello che ti è successo da giovane. Ah. Quindi questa divinità, chiunque essa sia, nuova divinità, perché è una nuova divinità, se mai è detto, il braccio, sì. Non ha nulla a che fare con la cagata colossale che ha fatto mia mamma. A quanto pare. Ha detto che non era sicuro. Esatto. Non so se ci siano un nesso causale fra le due cose. Però è anche vero che il metallo, esatto, che il metallo che ha mangiato è un metallo non esistente, a detta sua, nella nostra linea temporale, e fa in modo di imitarlo nella maniera più close possibile. E come nelle scene anime, proprio la massa di infocabile diventa esatto. Esatto. E quindi, insomma, sarà poi una scelta tua. Ah sì, e prima o poi, se diventerai una divinità, lui ti dovrà mangiare, ovviamente. Non ci conto. Di nuovo dovrà mangiarti di nuovo. Però aspetta un secondo. Questa cosa che sta crescendo dentro di me, poi, cioè, sarei io o... una sua evoluzione. È come quando si passa dall'età adolescente a quella adulta, almeno una sorta di metamorfosi. Meta, io le cose ve le ho dette spostando lui, perché mi aspettavo non gliele rovesciaste addosso. Cioè, fate quello che volete, però vabbè, scusate. No, beh, terapia d'urto qua. Sì. Vedete che Adone sappiamo anche che se vuoi, cioè, non è detto Adone ha questa espressione non è detto che tu debba trasformarti adesso o comunque nell'immediato futuro, anzi se fai una vita rilassata e lontano dai pericoli potresti non trasformarti. L'ho ricercato dal governo. Ormai. Di Oplica. Devi stare calmo. Ti piace il processo. Devi stare calmo. Hai il braccio. Guarda me. Inspira. Inspira. Non puoi ascoltare tu che sei diventato l'avatar di quello che mi ha appena divorato il corpo. Esatto, Adone. Dagli un pugno. No, niente. Non mi... Cazzo, un tiro una polvere. Esatto. Adesso, cioè... Cosa, la cosa che ti dicono dopo? Non ti devi stressare. Ah, certo! It's working! Beh, che dire. Forse è il caso di ritornare in superficie prima che magari... vengano gli altri. E io comunque sto bene, giusto? Tu ora sei riuscita a guarirmi? Sì, alla fine era un'operazione chirurgica, quindi una cosa relativamente facile. Cosa mi ha tolto? Le ossa. Le ossa. Solo tutte. Del braccio? Tutte? Fino alla spalla, okay. Un pezzo di... la scapola, il... qualche costola. Ah. No, perché sono quelle in alto, quindi... niente. Ahimè, caro D'Annunzio. Ahimè. Poeta dannato. Beh, comunque Adone dice, in tutta questa miseria, grazie ora per avermi curato e grazie a tutti voi per essermi stati vicino, per quanto sia stata una cosa di pochi minuti. Sarei stata un'ottima avatar. Questa è una menzogna. Cioè, ma... Non che Lieto sia tanto meglio. Ci sono un sacco di divinità ancora in giro, sono sicuro che troverai quella adatta a te. Wow, ci sono tanti pesci del mare. Mi raccomando, ora prendi quello più grosso, però. Vabbè. Sente dei vola passi di fiore in fiore. Nella vostra direzione. Mi sa che sono arrivati i nostri ospiti. In che modo gli dobbiamo mentire? Mi sono abituato a rimanere in silenzio, quindi decidete voi. Dirò hanno che... tutto loro. Sentite una voce femminile che già da lontano inizia a parlare e dice: sapevate che si possono corrompere le divinità? Ma ha riferito a noi o a quegli altri? È una voce che sta parlando tra sé e sé. Riusciamo a riconoscere questa voce? C'è un po' di eco, un po' di aria bufonchiata, per cui no, è una voce femminile, ma il timbro esatto... Ok. Myth sta in silenzio, in ascolto. Io sto sbuffando la mia pipa in un'area non areata. Aswan Das nel 1600. Ogni persona ha un prezzo. E a questo punto sono convinta che gli dèi sono solo persone. Gli dèi sono solo persone. Compare la sacerdotessa di Diru. Proprio tipo una figurina piccola in alto dall'entrata del posto. Il vostro amico che voleva mangiarsi il mio tempio si è accontentato di uno scambio. Ovvero? Ovvero, io sono la gran sacerdotessa di Ruapeira, la divinità protettrice della città, avete presente? Certo. Sì. E sì. Avrei delle grandi ambizioni di fare carriera ecclesiastica. Tuttavia, lo stato delle cose attuale me lo rende molto difficile, perché sopra la gran sacerdotessa non c'è più niente. Da un centinaio d'anni a questa parte. E quindi ho trovato un modo per convincere il vostro amico a permettermi di fare carriera, che è quello che una donna in carriera come me vuole. Non avete capito dove sto andando a parare, vero? Oh, torni. Sei diventata un avatar anche tu? Sto per. Oh mio Dio. Ma dovreste guardare i giornali. No! Cioè, proprio Biffo questa volta, veramente, fa... Man! Credo che nei prossimi giorni vedrete delle notizie interessanti su Lumiera. Ma soprattutto... Lumiera? Uno di voi, se vi ricordate, ha fatto un grave errore. Ah, la monetina, vero. Mancando di rispetto a una divinità che a quanto pare ora è libera. Lieto. Oh, cazzo. Lieto. Siamo in una guerra. Oh, io, sia chiaro, sono dalla vostra parte, io vi... do tutti gli auguri, gli in bocca al lupo del mondo e ti auguro di riuscire ad ucciderla in modo che io poi possa prendere il suo posto. Ciao ragazzi, è stato veramente un piacere conoscervi, per favore non fatevi mai più vedere nel mio tempio. Che se ne va. Ok, andiamocene subito per favore. Andiamo da qualsiasi altra parte che non sia qui per discutere. Sì, beh, forse è anche il posto più tranquillo per discutere questo. Perché Lumiera? Lo stai chiedendo alla tipa perché se n'è andata. No, no, no, no, agli altri, so, ho capito, cioè... Domanda, io mi ricordo qual è l'effigie di Lumiera? Di Malapenny? Tu no. Mif sì. Aspetta, me lo rivado a cercare perché ero sbidasso. Ha un taccuino in cui c'ha la lista. Esatto. Adesso... Facevi timbri, Cerchio. È il cerchio. Eh sì, è proprio un cerchio. Quindi Diru era il cerchio? Oh cazzo, Diru era il cerchio. C'è tipo questo momento catartico e fa fondo. Dovremmo... Quindi la sacerdotessa è appena diventata l'avatar di Diru. No, credo che debba prima morire l'altro avatar. Esatto. Ha comprato un immobile locato. Come si chiama? La nuda proprietà. Questa è ora, eh? Ora lo direi questa cosa. Ok, quindi aspetta, è la stessa cosa che è successa qualche settimana fa. Però quella che dicevano i giornali del massacro. Sì. Sì. Oh no. Siamo stati 80 anni senza mai un problema interno alle centrali, nel giro di un mese ne abbiamo avuti 4. Wow. Strano, vero? Non so di cosa stiano parlando queste persone. Quello di Okrika, Lumiera, Apeira no, e... No, Singida. Apeira non è successo niente. Singida. Scusami, quindi quali sono i quattro? I problemi di Apeira sono a lungo termine, non è successo niente nell'immediato. E sono... Vabbè, Okrika due volte, Okrika. My bad. Ah, Okrika due sì. Volte, eccoci. Poi adesso Lumiera e Singida. Basta. Singida. Ok. Sì, sì. Diciamo, qual è la terza? Ok, la prima volta è quando siete arrivati voi, la seconda volta è quando è esploso tutto. Sempre quando siamo arrivati noi alla fine della sì. Wow. Sì. Non siete tornati voi. Si torna sempre dove si è mangiato bene. Disse Arm. Oh. Si arma veramente canon. E beh, che dire, abbiamo un baby dio, un qualcuno nella strada per un dio e tanti problemi. Usciamo da qui. E cosa facciamo con i tuoi amichetti? I miei amichetti? Si può, dopo questo si può dire che a quanto pare era un'allucinazione collettiva e boh, magari se la proposta che hai fatto tu di un contratto si può sempre fare, secondo me. Quando uscite, scegliete pure voi l'ordine con cui uscite. Prima Nibel. Poi Adone. Lieto chiude la fila. Il dietro nel frattempo sta cercando di fare delle magie che non conosce. Ci arriviamo. Mif, ora è lieto. Quando stai per uscire lieto, ti giri per un secondo, quasi per un riflesso, e vedi che questa stanza è popolata da i simulacri di tutti gli avatar che ti hanno preceduto. Tra questi, l'unico che riconosci temo sia Kronos. Gli altri sono individui. Okay. C'è un po' di tutto, individui di genere indefinito, ragazzini, uomini adulti, cioè tanta gente. questa cosa, questa allucinazione dura proprio una frazione di secondo e sembra che tutti, tutti ti stiano uomini. No. No, okay. Stranamente no. Ti fissano per una frazione di secondo e poi spariscono. Basta. Hai avuto il momento Avatar. Sì. Proprio il momento Avatar The Last Airbender. E c'è una non mi dicono, non mi dicono niente. Okay, okay. Temo di no, perché in realtà ce n'è uno che diceva qualcosa al dottor Eddie, uno che diceva qualcosa alla dottoressa Mif. Ahimè, gli altri non mi sembra che tu li conosca. Ci penso, probabilmente qualcosa poi te lo dico. Ma sono tutti avatar di Kronos o tutti Kronos. Avatar in generale? Di Kronos. Di Arva. Di Arva. Sì, di Arva. Di Arva, scusa, sì. Cioè, Kronos e tutti gli altri suoi amici. Che lo posso hanno... dire, l'unico nome che odio che tu abbia scelto è stato Kronos per l'avatar di Arva. E è porca troia. Vero? Sì. Sono d'accordo. Sì. Che palle. Ahimè, sono d'accordo. Schiliscio da parte mia interamente, non ho difese. Tra l'altro c'è anche della gente strana, nel senso c'è un Shunar tra gli avatar. Lo riconosci, riconosci perché c'ha gli occhi a mandorla. Sono così, sono fatti così. Siamo fatti così. E c'è una vocina nella testa, proprio un sussurro, sempre lieto, che ti dice... Ma chissà che il modo migliore per attivare i tuoi poteri non sia proprio quello di attivare altri templi come questo. Ok. Chissà, chissà, è una vocina, è un dubbio. Ragazzi, è il tempo di tornare ad Oclica. Sì. Ce ne abbiamo uno. Ok. Uscite fuori dalla... Abbiamo altri piani. Ok, scusate. No, beh, se devi fare qualcosa... No, no, dicevo che mentre state uscendo le spine, le meridiane, si sono fermate. Ma ne mancano alcune. Cioè, vedete che ci sono dei buchi per terra. Che strano. Mancano delle meridiane, da sì, per terra. Di quelle che erano infilzate okay nel terreno. Sì, sì, sì. Usciamo, cioè io non mi fermo troppo sì, altro qui pensare sì. Io non ci faccio neanche caso, proseguo, salgo le scale e... se qualcuno apre la porta, la porta do l'occhiata aperta da fuori, okay, segno che qualcuno do l'occhiata fuori, guardo se c'è qualcuno in modo che non ci veda uscire. E se non c'è nessuno, il tempio è semideserto. C'è solo la gran sacerdotessa che è all'entrata principale e vi sta dando le spalle. Ok, allora faccio cenno così con la mano e usciamo, esco fuori. Ok, riprendete la scalinata iniziale o volete rimanere qua? Non ho capito, ditemi voi. Sono... Esco fuori dalla porta del, sì, del tempio di Arva e siamo ancora dentro il tempio. Sì, poi non esatto so se altri vogliono andare via direttamente. Ditemi voi. Beh, ha senso aspettarli fuori visto che la signora non ci vuole più dentro. Forse sì, meglio di sì. Che momento della giornata siamo? In realtà, cioè, è sembrato passare una vita, ma è passata a meno di un'ora. Quindi sono le prima delle 4. 3:50, sì, una cosa del genere. Voi volete aspettarli ancora qua? Che altri piani abbiamo? Io ho della roba da vendere. Anche io ho della roba da vendere. Io ho dei templi da cercare. Magari sia giusto... un lavoro a lungo termine quello, lieto. Come segno di cortesia almeno farli arrivare, incontrare e dirgli guardate. Scusate. E magari fare un'offerta decente alla dea? Tipo un Mif che guarda lieto come per dire magari io Dio l'ho trovato Credo che non possiamo sistemare una cosa del genere, non al momento. Incredibile come per 6 anni della mia vita sia riuscita a vivere abbastanza tranquillamente e poi nel giro di un mese è successo tutto. E adesso siete in un gruppo con 3 mine vaganti. Wow. Beh, effettivamente Adone potrebbe esplodere. Puoi per favore avere della decenza, Mif? Mif di dai, che passi. Scusami. Siamo già usciti o siamo... Se, come volete. Siamo ancora dentro il tempio di... Perché a questo punto, se siamo ancora dentro, Adone uscite, se ne esce. Okay, okay. Sì, sì. È brutto tempo. Fuori. Sta bruscolando. Bruscolando è un termine dialettale. Sta piovigginando. Bruscolando è un termine dialettale. Va bene. Eh sì, ahimè. Fuori dalla nostra provincia non capiscono cosa vuol dire. So perché l'hai fatto già una volta quando sì, c'ero, sì. Ero lì da te, allora ok, però. Esatto. E siamo lì ad aspettare. Adone si siede in un punto asciutto. Riparato. Esatto, a riflettere un pochino, cioè si stacca un attimo dal gruppo. Puoi scegliere un albero oppure un capannone. No, dai, un albero. Il capannone mi sembra più asciutto, in verità. Sì, il capannone all'interno è più asciutto. Fuori ha una specie di tettoia, ma non è così asciutto. C'è all'interno un bar, una locanda... No, perché siete in cima alla collina ed è tutta proprietà della cattedrale. Quindi c'hanno tipo due o tre edifici. Cioè, quello principale più un paio di capannoni, comunque casupole, e degli alberi. Guardo la mia fiaschetta vuota. Sospiro. La chiudo, la ritiro. Lieto poi a fargli il vino, tipo. Vabbè. Gesù Cristo. Ma ho letto in una favola una volta. Che leggende, no, mi stanno già mentendo. La facciamo subito perché fa ridere. La fiaschetta l'hai svitata e l'hai aperta, giusto? Facendo versare il contenuto. Sì, sì. Lieto nel tentativo di fare le magie sulla cosa. Fa rientrare il contenuto all'interno della fiaschetta e la fa chiudere. Oh! Quindi non so cosa lo fa, che basta. Dai. La riapro di nuovo, guardo dentro. Vuota! Scusa! E... a cosa è servito? Ce l'è con me? Sì. Ah, no, volevo provare. È un'esperienza nuova per tutti questa. Ecco, qualche tipo di magia che mi riempie la fiaschetta di altro liquore? Sì, per provare. Non sono cose che si possono fare di norma. Non ho le conoscenze che possiedo. Sei il benvenuto se vuoi provare di nuovo per me. Se c'è una magia che apprezzo, probabilmente è questa. Cosa sei? Una magia naturale, tra l'altro, tipo. Che resiste, Ok. Sì, sì, è magia naturale. Magia naturale. Io propongo invece di andare a bere dopo tutto questo. Lieto accetta. Dura non ti proprio dirò di no. Un paio di minuti l'attesa. Vuoi raccontarmi il tuo monologo interiore solipsistico, Adone? O no, come vuoi. Sembra che ci stia per dire qualcosa. No, volevo solo dirvi. Ma Adone, cioè, sta riflettendo su quello che è successo. Cioè, allora, facendolo un po' più serio, Adone sta pensando a come ha ignorato il rituale per tutta la maggior parte della sua vita. È tornato rilevante per poi tornare completamente irrilevante, forse. O comunque la cosa lo allegri e la cosa comunque lo irrita particolarmente perché ha fatto tutto questo sforzo per nulla cosmico. Poi la cosa di questo dio che sta crescendo dentro di lui chiaramente lo spaventa e non sa bene cosa farci. È in quel momento, alla fine di questa epifania che arriva ora, ti mette una pacca sulla spalla molto forte. E ti questo dice... braccio magari che mi ha ricucito. Sì. Aia! Ora! Ti ho guarito. Era una magia di guarigione. Ah, mi sento guarito? Non particolarmente. D'accordo. Vedo che sei preoccupato, ma dovresti essere contento. Finalmente non hai più una data di scadenza. Questo è vero. Guardare il lato positivo. sì, almeno sono tranquillo che non è causa della piaga bronza, ecco. Questo è un sollievo. Hai ragione. Lo sappiamo che il rituale che hai fatto da bambino non è necessariamente collegato alla cosa divina che hai dentro, però non sappiamo se è collegato alla piaga bronza o meno. Solo il tempo ce lo dirà, l'hai capita? È una battuta sul fatto che abbiamo un dio del tempo nel party. Le tiro un pugno sulla spalla. Ci sta. Lo capisce. Sì, sì, sì, è giusto. Anche quella è una magia creativa. Adesso le tiro un pugno e vedi che da dove l'ho colpita esce fuori un coniglio. No. Ci sono altre cose che ti sono entrate dentro di cui dobbiamo sapere. Allora, tu non sei lì con me. Non sei lì con me, tanto per cominciare. Ah, ok. Vabbè, siamo tutti lì sotto, scusa. Cioè... Ah, ma siete tutti al capannone? No. Ma penso di sì, ti abbiamo raggiunto. Perché noi siamo tutti sotto la pioggia a fare... Allora, dici veramente la cosa di chi è entrato dentro Datone? Sì, sì, sì. Ma volevo usare venuto, però poi ho detto, vabbè, non so se... Troppo. Per Nibel. Lasciamo il doppio senso un po' così. Adone vi guarda e vi dice tutti: capisco che per voi sono un fenomeno da baraccone, ma non ho una mia dignità. Non risponderò a questa domanda. Parola sbagliata, nessuno ha detto che sei un fenomeno da baraccone, però sei un pericolo. E non sei l'unico qua, chiaramente. Quanti? Io preferivo il termine soggetto a studiare. Sono d'accordo. Un soggetto, va bene. Non credo che a questo punto sia una buona idea fare quel contratto comunque, Mif. Lo capisco. In verità, abbiamo ottenuto molte più informazioni da Arva. Non rischio più di morire da un momento all'altro, quindi... Che contratto? Mi sembra che abbiamo molto... Una voce squillante proveniente da una ragazza giovane. Oddio, non mi ricordo la descrizione di Marika. Coi capelli biondi, lunghezza media. E beh, Marika di Elden Ring. Era veramente così la descrizione. Era vestita da design e cioè sì, vestita griffata. Con la spilla al bordo del fianco nascosto. Si vede, non si vede. E ha sopra di sé una... Che cazzo di spell usa sta stronza? Ha la magia più bella di tutte. Intorno a lei non piove. Oh, wow! Ahimè. C'è un cono di non pioggia intorno a lei. Che copre anche il suo amico Yona. Ovviamente non c'è Deimos, come vi avevano detto. Perché a lui non gliene frega un cazzo di questa cosa. Quindi, di che contratto parlate? Ma di un contratto che eventualmente dovrò fare quando tornerò nella mia città natale, ma tra un bel po' di tempo. Ah, robe noiose di lavoro, ok. E dov'è il puzzle da risolvere? Il puzzle da risolvere è dentro al tempio. Sai un po' di teurgia, immagino, ti vedo presa. Vedo su una studiosa, quindi immagino sì, che tu le basi. Utilizzare le teorie. Perfetto, c'è una porta nascosta e le fa capire dov'è. Prego, vai pure là dentro. Non venite voi? Io mi giro lentamente verso Mif e ti guardo. Mif che tipo lentamente fa spallucce. La serie è in vita migliore? Abbiamo già provato a risolvere il puzzle fallendo miseramente e iniziamo ad avere l'idea che probabilmente abbiamo avuto una svista noi e che forse non c'è proprio nessun puzzle da risolvere in quel tempio. Beh, non me ne andrò senza aver provato. Yona, andiamo. Buona fortuna. Grazie. Ok, secondo me è meglio andare. Secondo me è meglio andare adesso. E se lo risolvono? Non c'è più sul muro. Soprattutto c'è già un avatar a questo punto. Infatti. Beh, non mi serve più. Che la la sacerdotessa lì si sia tanto fatta problemi del fatto che già esista un avatar del suo dio. No, e la sacerdotessa... No, scusatemi, io se ho capito bene, la sacerdotessa non è che diventa avatar... Ah no, è vero, sì. Scusate, ignorante. Diventerà nel momento in cui morirà, sì, quell'altro. Sì. Quindi non lo è ancora. Non ci sono due avatar. Ha comprato la nuda proprietà. Io lo terrei. Ha comprato il diritto... Ha comprato il diritto per diventare il prossimo avatar di... Di cosa? Di... Come cazzo si chiama? Signor Diro. Cerchio. Di Diro. Mister C. Se... Se loro evocano di nuovo Arva... E Arva decide di rendere uno di loro un avatar. O meglio, di dargli la possibilità di diventarlo. Beh, sarebbero un po' carne da macello. Sarebbe un problema per Lieto, commenta Ora. Oltre già, che sì, un altro problema per Lieto. Un altro bersaglio sulla tua schiena. Quanti ne hai di già? Beh. Fino ad oggi, in realtà, parte il... la divinità con la monetina. Deve essere parte della mafia. A proposito di questo, forse se la nostra collaborazione diventerà qualcosa di duraturo, forse è il caso di non avere più segreti. Ora sta guardando altrove. Beh... Voi tutte le cose importanti della mia infanzia e della mia gioventù le sapete a questo punto? Sì. Anche già, di me. Il fatto che... Tutto. Sta mentendo. Vuoi fare un roll? No, non ci credo. No, cioè Adone proprio risponde, io non ci credo che sappiamo tutti tutto di te. Non mi pare proprio una cosa... Non sono così rilevanti per la nostra convivenza, più che altro. Cioè, vedi che Mifa ci sta pensando veramente. Ah. Ok, forse qualcosa c'è. Però, prego, Nibel. Prima le signore. Prima le signore. Se avete domande, fatemi domande. Io la mia è stata una vita mondana. Io non mi ricordo però cosa ci aveva detto dei funghi. Gli sono cresciuti un giorno. Ma infatti che... Chiedimelo, sono qui. Mi ricordo che ce l'aveva con la centrale. That's for sure. No, quello se lo ricorda, non è... Sì, sì, sì. A questo punto. Vi ricordate perché? Perché... Non bene, in realtà, non mi ricordo neanche se l'ha detto a modo. Adona a questo punto lo chiedi, dice, magari non mi ricordo bene cosa è successo con il tuo braccio, appunto. Mi ricordo che eri raccontato di essere stato un minatore per la centrale e che in quel modo ti sono cresciuti i funghi, non ricordo esattamente. No, io ero un minatore, lavoravo fuori città a nord. E... La mia famiglia, o meglio, la famiglia di la mia madre, non ricordo più. Tua moglie? Sì, la famiglia di mia madre, no, mia moglie poi è arrivata dopo. Okay. La famiglia di mia madre aveva le terre... Secondo me c'era una promessa fra le donne. Sì, sì. La famiglia di mia madre aveva le terre, i campi coltivati di Apeira. Mio padre arrivava dal nord. E... Nord? Sì. Nord quanto? Te lo dico subito appena apro il mio background. Allora, occhiali comicamente piccoli, il diario. Il taccuino. L'albero genealogico. L'albero genealogico della sua famiglia. Mio padre era di origine sefine. Non così tanto a nord, quindi. Vabbè, diciamo. Sì, sì, no, no, dico per... a nord rispetto a qua, comunque. Esatto, tipo... Ah, ok. Era un pescatore dei mari del nord, si è spostato a sud perché le acque erano più tranquille. Ironicamente, ci ha lasciato la pelle proprio in queste acque. Ha conosciuto mia madre qui, si è stanziato qui. Sono cresciuto ad Apeira. Ho incontrato la donna che poi è diventata mia moglie in una locanda. E ho preso la proprietà di mia madre. Ho espanso i campi. Ho vissuto lì con mia moglie. E poi è arrivata la centrale. E quando è arrivata la centrale, mia moglie e mia figlia si sono ammalate. Io ero sempre fuori dalla città per il mio lavoro nella miniera. E prima ho perso mia moglie. E non ho potuto essere al suo capezzale quando ha aspirato l'ultimo respiro. E quando mia figlia è rimasta da sola, ho deciso di lasciare il mio lavoro in miniera e badare a lei. E lì la malattia ha preso anche me ed è peggiorata con gli anni. E ho dovuto seppellire anche lei. Condoglianze. E dopodiché Adone dice: tu ti sei mai domandato, scusami se risulta cruda la domanda, ma come mai tu non sei morto come loro? Sospetto perché molto del mio tempo l'ho passato fuori città. La malattia ha preso piede, ma non ho costantemente passato tutti i giorni in presenza della terra contaminata. O almeno questa è la mia supposizione. Capisco. Fatto sta che delle persone della centrale sono venuti a controllare la salma di mia moglie e poi quella di mia figlia. E non so bene cosa hanno fatto, però sembra che sapessero qualcosa, ma non mi hanno detto niente. Man mano che è passato il tempo e più è cresciuta questo sentimento di rabbia e di voler trovare delle risposte, e a quanto pare in questi giorni ne ho avute abbastanza. Capisco. Questa è la mia storia, ve l'ho detto, abbastanza mondana. Beh, per quanto riguarda me, credo che ce l'abbiate abbastanza presente. Quindi tuo marito era un direttore della centrale? Sì, prima che lo arrestassero poche settimane fa. Siamo settimane o settimana? Perché in verità mi sembra... È difficile a dirlo, c'è stato il time skip. Calcolando gli avvolgimenti del tempo oppure... Settimane. Non so se un mese, ma settimane sicuro. Mm-hmm. Quindi Adon dice poche settimane fa. Lo hanno già rimpiazzato? Non ne idea, perché quando l'ho saputo... Oddio, è vero, come cazzo? Ah, l'ha saputo dei giornali. È vero, Adon dice... Quando l'ho scoperto, poco dopo ho dovuto lasciare l'impero e non ho più letto notizie al riguardo. Non l'ho saputo nemmeno direttamente, appunto. Ho letto un giornale. E se, stando a quello che ha detto Arra e alle mie conoscenze, credo che mio marito, appunto, abbia dei contatti con Pestaia. E che forse abbia fatto qualcosa alla centrale che non doveva fare. Qualcosa sulla falsa riga che ho fatto io. di quello che ho fatto io. Però sì. Sospiro un attimo, Adone dice: ci sono alcuni elementi di mio marito che non... che risultano curiosi se non bizzarri guardando il grande quadro generale delle cose. E i genitori di mio marito lavoravano... hanno lavorato alla costruzione della centrale di Apeira. E guardo... guardo Nibel. Ma sono deceduti, perché nella costruzione appunto c'è stato un incidente. E la versione ufficiale dice che è stata causata da un fallout della centrale, ma un mio vecchio amico di nome Ivan diceva che suo padre è... ma correggimi, Bianic, eventualmente suo padre è morto nello stesso incidente, che probabilmente non era affatto un incidente di fallout. Non so se la vuoi raccontare, no. Ivan non si è mai interessato di sta cosa. Era Kiel che vi ha detto, che ha detto a Ivan che esatto, erano Kiel. Cazzate. Ok, vabbè, però sì, questo sì. Comunque il succo della questione è questo. Sì, perfetto. Sì, il motivo per cui è cazzata non è perché te l'ha detto Ivan, ma perché l'ha detto Kael. Sì. Su Kael, okay, se vuoi fare la parentesi, divertiti, sennò chi se ne frega. Io non so, ho memoria di questo incidente. Chiaramente la versione pubblica dell'incidente. Secondo me, allora, eri un bambino piccolo quando è successo? 1590 è successo. Sì? No, vabbè, allora sì, non ero un bambino piccolo. E non ero un bambino piccolo e avevi 20 anni? Adesso che anno siamo? 22. 1622. Sì, 20 anni, sì. No, aspetta, 32 anni fa? Sì, ne ho 52 io. Ok, avevi 20 anni spaccati. Era alla... prima della costruzione della centrale. Se mi fai un roll di storia ti do una versione più dettagliata in base a quanto fai. Certo, amore. Dov'è cultura? Sì. Ho fatto 4. Bella così. Quello che ti ricordi è la tua esperienza diretta, quindi c'è stato un periodo in cui effettivamente stavano costruendo la centrale, ci sono stati numerosi morti, numerosi funerali, ti ricordi più i funerali che i morti, e non è mai stato chiarissimo cosa fosse successo. Fatto sta che quando hanno finito la centrale sono finiti anche questi incidenti, morti, insomma, questa storia qua, e non è che l'hanno insabbiata, ma hanno smesso di parlarne, a nessuno interessava. Ok. Appunto. Scusami, ti ricordi anche che non erano cominciati nel 90? Erano cominciati qualche anno prima, e Nibel, non sì. Adone. Ah, sì, scusa, sì. Ok. Ma quindi ci hanno messo 15 anni per finirla, la... cioè quasi 20 anni per finire la centrale? No. Allora, queste morti strane collegate alla centrale risalgono, sono iniziate nell'87-88, altrove però. E okay. La storia era che stavano preparando delle centrali in varie parti... non solo in Acaies, però anche nella regione, diciamo, nella macro-regione, tra l'impero e il posto dove siete. In seguito a questa preparazione dei materiali, hanno assunto un sacco di gente e c'erano un sacco di morti. Allegedly per incidenti legati al fatto che i materiali erano pericolosi, eccetera. Nel 90 finiscono i lavori della centrale, cioè della centrale di Apeira, e finiscono da un giorno all'altro queste morti, che invece per... quasi 3 anni erano abbastanza frequenti, cioè ogni settimana moriva qualcuno. Ok. E visto che è durato 3 anni, parliamo di centinaia di persone morte. Ok, sì, perché nel 90 è stata costruita. Sì, Quindi... e centinaia di persone morte ed erano quasi tutti stranieri, nel senso gente reclutata in altri paesi. Quella è la vita vera. E i loro whereabouts non sono di pubblico dominio, non ci sono articoli o comunque notizie solide su questo periodo. E anche la memoria della gente, non dico che è lacunosa, ma sembra che nessuno avesse un conoscente, un parente, un amico morto in questo periodo. E ti ripeto, sono morte centinaia di persone. È molto strano che, cioè, a pensarci adesso, che nessuno conoscesse Sì. nessuno. C'è Basta una fine. singola cosa di queste centrali che non è costruita sul sangue delle persone? Non credo. Nel senso che se consideriamo vero quello che abbiamo detto prima, ovvero che le divinità sono persone, l'esistenza stessa di una centrale richiede lo sfruttamento di persone. E la sofferenza su loro. Detto questo, non credo di avere altre informazioni utili da condividervi. Mif sa più di me, quasi, di ciò che mi è successo quando ero piccolo, di quello che mi è successo. Vai, vai. Ora dice, quindi non resta che parlare di Lieto e Mif. E anche di te ora. Pensavo di avervi già raccontato la mia storia. No, io dite. Ho fatto la carriera ecclesiastica con l'idea di diventare una dottoressa in un'epoca in cui non esistono più dottori, quindi non la scelta di vita più oculata. E fino al mese scorso ero una normalissima sacerdotessa di Tilia, finché viene a trovarmi una persona con una malattia strana, per cui vado alla cattedrale di Oclica a chiedere informazioni al vescovo, perché il vescovo di cui lei si ricorda il nome, io purtroppo no. Sono Scusate, vado un secondo Monrosencrantz, trovato a in un prendere secondo, dell'acqua. geniale. Ah, non la vuoi sentire la storia? Ma mi Devi andare abbandona a indietro. metà! Andando a salutare, da quello che ho God capito. fucking damn it! Let him go. Ne approfitto perché Eddie se n'è andato. Però non mi sento benissimo Ah! e sono un po' stanco. Mi spiace, Quindi... cazzo. Chiudiamo No, ma c'hanno subito? tutti il raffreddore e mi sa che sta venendo anche a me. Rip. Beh, sì. Cazzo. Il Mi prossimo monologo o vuoi andare? no, no, mi ascolto ora, però almeno poi... Sì, vai, chiudiamo. Poi Ci sta, ci sta. Tanto per oggi abbiamo fatto, vero? Minchia. Briga, mi hai fatto più Sì. trama oggi di 8 Infatti. sessioni back to back, praticamente. Sì. Sì, infatti. Dai, che tutti i nodi arrivano al pettine. Esatto. E pettiniamo. Ma Nibel non è calvo. Ha i capelli rossi e lunghi. Che Dicevamo nivello che hai visto, scusa? Ika non sta benissimo, quindi finiamo il monologo e poi chiudiamo la sessione, va bene? Ok. Perfetto. E dicevo, sono ora che parla, e il vescovo Solomon Rosencrantz, che era il grandissimo vescovo di Oclica, famoso in tutto il mondo, che è morto di recente. Prima che morisse, chiaramente, sono andata a chiedergli udienza per capire se aveva qualche insight, qualche idea per guarire questa nuova malattia che aveva un mio paziente. E mentre lo vado a trovare, c'è una situazione strana in cui incontro una donna alla quale avevano amputato i piedi e la stavano trasportando con una carrozzina. E io c'era una donna, una, come dire, un'attendente, una cameriera, una guardiana che la stava trasportando e le chiedo: ma perché non la guarite? E mi dice: no, ma non si può guarire, e non mi spiega perché. E io mi infastidisco anche perché comunque, cioè, non, il nostro compito di noi sacerdoti è guarire la gente, quindi la guarisco forzatamente, le faccio ricrescere i piedi e e in quel momento arrivano dei soldati dell'impero che tentano di ucciderci, e ne ho ammazzato uno, perché comunque me la cavicchio con la magia, e sono scappata dall'impero, perché chiaramente mi volevano ammazzare. Ho preso il primo treno, ho avuto fortuna che sono riuscita a non dare nell'occhio cambiando vestiti, e niente, è arrivata qua, ho incontrato voi. Prima di quel momento vi assicuro che non ho mai avuto una vita strana. Gli viene un po' da ridere, Adone, chiaramente. Perché per noi, non per lei. Anche i miei contatti con la Santa Chiesa sono puramente professionali, non è che fossi particolarmente religiosa o attaccata a una divinità, semplicemente è il simbolo internazionale della magia medica. Va bene, io ragazzuoli vi abbandono, però. Bello. Dai, ci riprendiamo la prossima volta. Ciao. Sì, sì, sì. Ciao. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Se volete farmi delle domande, poi chiudiamo proprio for good, se no chiudiamo e basta. Ma se Adoni usa la pregnancy machine per abortire? Stai definendo... Cioè, tu intendi che sia... davvero una frase. Esatto. Non sicuramente una fisicamente... frase. Lo so, dai! Metaforicamente. Metaforicamente. Anche perché in verità sto... Cioè, io sto facendo nascere me stesso alla fine. È più una situazione Zeus-Atena. Sì, Steven Universe. Adone. È vero. Adone, tu sei una cosa bellissima, devi vivere. Ho mal di pancia.